Adesso siamo AVS collegamento Media telefonico Demo. invece con Giorgio Antonucci che ha conosciuto direttamente Franco Basaglia. Buongiorno Giorgio. Buongiorno, Ciao, buongiorno. buongiorno. E quando hai incontrato Franco Basaglia e come avete collaborato AVS insieme? Media Demo. Dunque, io l'ho conosciuto quando ancora lavorava a Firenze. Siccome io negli anni 60, poco dopo essermi laureato, io mi sono laureato nel 63, negli anni, in questo caso ricordo AVS Media 65-66, Demo. siccome già io mi occupavo di evitare gli internamenti, cioè me ne occupavo anche con successo, nel senso che mi occupavo di persone che rischiavano l'internamento e cercavo di evitarlo. AVS Media Demo. Allora una volta gli telefonai a Gorizia e gli dissi che facevo queste cose e anzi scherzando gli dissi che lui stava cercando di eliminare il manicomio e io stavo cercando di non AVS mandarci le Media persone Demo. in modo tale che si era complementari. Ci si rise anche sopra. Gli telefonai diverse volte, anche perché volevo sapere che ne pensava di certe situazioni a cui io andavo incontro. Così poi, quando AVS Media dopo Demo. Cividale del Friuli, quando io avevo lavorato nel primo reparto di ospedale civile in alternativa ai manicomi, diretto dai Delvai Scotti, anche Delvai Scotti a Bologna faceva il lavoro di AVS battaglia per Media la Demo. Gorizia e poi fu mandato via dagli amministratori da Bologna e Basaglia si interessò e riuscì a trovare un reparto nuovo neurologico nell'ospedale civile di Cividale del Friuli AVS e Media lì Demo. si mise insieme perché Cotti si rivolse a me e a Tesi. Tesi lavorava con Basaglia, io lavoravo come ho già detto. E in tre medici, tre assistenti sanitari, AVS anzi un Media assistente Demo. sanitario e un assistente sociale. Gli assistenti sanitari venivano da Gorizia e si cominciò a fare questo lavoro che durò poco perché il paese di Cividale non sopportava che le AVS persone che si Media comportavano Demo. benissimo fossero in giro invece che essere in reparto e si dovette chiudere Cividale. Comunque questo è nel 68. Nel 69, siccome fumo buttati fuori da Cividale, Basaglia mi invitò a lavorare con lui a AVS Media Gorizia e Demo. così lì a Gorizia ho lavorato insieme a lui. Vorrei riprendere le parole che sono state citate da poco perché riguardano il presente, cioè Basaglia che vedeva molto chiaramente la difficoltà AVS del problema, Media ha detto Demo. forse i manicomi, in pratica ha detto così, ci saranno ancora, infatti ci sono ancora, dopo di tanti anni, però quello che non ci possono togliere, è che noi abbiamo dimostrato che si può fare diversamente e questo AVS spiega Media i grandi Demo. valori di Basaglia, non il fatto falso che si dice ora che non ci sono più gli internamenti e i manicomi, perché ci sono gli internamenti e ci sono i manicomi, però appunto le cose sono diverse perché c'è qualcuno che ha AVS Media dimostrato che Demo. si può fare diversamente e chi continua a fare come nel passato è sotto giudizio, mentre prima sembrava che fosse naturale e l'unica cosa possibile. Senti, ti volevo chiedere proprio a questo proposito, di aiutare AVS a fare Media chiarezza o Demo. almeno a esprimere la tua opinione, in proposito su, quella che a noi pare essere un po' una mistificazione o comunque una versione non proprio corretta delle cose, cioè quella che fa passare la legge AVS 180 Media come Demo. la cosiddetta legge Basaglia. Invece sappiamo che ovviamente il ruolo di Basaglia fu fondamentale in quegli anni come figura di riferimento. Però la legge 180 che al suo interno prevede ad esempio il trattamento sanitario obbligatorio con AVS cui Media si ha Demo. oggi a che fare in termini pressoché manicomiali, comunque di costrizione psichiatrica, per l'appunto si discosta in parte dal pensiero e dalle convinzioni di Basaglia Ma che. certo, dico perché AVS Basaglia Media aveva Demo. scritto anche sulle mura del manicomio di Trieste e voi li internate, infatti a me aveva preso perché evitavo gli internamenti e noi li liberiamo. Certamente

un proletario o un immigrato, andava in manicomio giudiziario, per cui tra andarci e non andarci non dipende dalle nostre facoltà, dipende dall'arbitrio degli altri. Questo l'ha detto AVS Media Demo. Contro la psichiatria non si difende un ristretto numero di persone, si difende tutti, perché tutti possiamo diventare pazienti psichiatrici, perché chiunque arbitrariamente, e anche gli psichiatri, possono dire che uno è malato di mente. AVS Media Demo. Lampante è il giudizio sull'omosessualità che gli psichiatri americani hanno abolito ad alzata di mano, perché uno degli psichiatri aveva detto: ma ci sono tanti omosessuali anche tra di noi. Nonostante questo, AVS Media Demo. Il vescovo di Pistoia, mi sembra, ha detto che gli omosessuali non possono fare la comunione, e lo psichiatra Francesco Bruno, che va sempre in televisione, ha detto che AVS Media Demo. La psichiatria ha ragione, l'omosessualità è una malattia di mente, e questa è una pura idiozia, ma è un'idiozia pericolosa, perché è chiaro che non si può fare un convegno sull'oncologia AVS Media Demo. E poi ad alzata di mano dire che il tumore non è una malattia, perché è un fatto oggettivo. Invece si può, come fanno gli psichiatri americani, riunirsi e dire, per esempio, ora hanno inventato anche che le gambe inquiete sono una malattia AVS di mente, Media Demo. Sciocchezze. E noi si potrebbe soltanto ridere della loro mancanza di intelligenza, se non fosse che siamo minacciati, per cui c'è poco da ridere, anzi bisogna stare attenti. Certo, tra l'altro mi veniva in mente quando raccontavo AVS Media Demo, invece dell'esito tragico che hanno molti episodi di questo genere, in cui non interviene una rete di solidarietà a salvare dalle mani dell'autorità, ultimo, cioè almeno che mi ricordi io quest'estate, AVS Media Demo, il nostro Giovanni, che appunto è stato fermato sostanzialmente per un'infrazione stradale, qualcosa del genere, portato nel reparto psichiatrico, morto dopo essere stato tenuto per 4 giorni legato al letto senza alimentazione. E AVS Media Demo. Tornare a Basaglia, il titolo Crimini di Fascia, e Basaglia ora rischia di essere preso come copertura alla mancanza di cambiamenti, quando lui ai suoi tempi i cambiamenti l'ha fatti. L'unico modo per rispettare AVS Media Demo avanti e approfondire quella critica al pensiero psichiatrico che Basaglia ha fatto in pratica, ma dopo i basagliani sono tornati indietro, ma Basaglia l'ha fatta, perché quando lui prende AVS Media Demo, gli toglie la camicia di forza e fa l'assemblea per Bacco, dimostra che lui pensava che sono persone con cui si discute, e le persone con cui si discute non sono, come dicono i giuristi, incapaci di intendere e di volere. AVS Media Demo. Siamo stati insieme, abbiamo anche discusso. Poi ora, per finire, cioè, mi ricordi, no? Io mi ricordo una volta che ero nello studio con Basaglia a Gorizia e arrivò uno studente di architettura che aveva AVS Media Demo. Una clinica psichiatrica, siccome i vecchi manicomi erano brutti, luridi, e lì invece lui aveva fatto un edificio moderno con grandi vetrate, corridoi, giardini. AVS Media Demo. Diceva: interessante questa soluzione, interessante quest'altra. Poi in fondo gli disse: però lei ha sbagliato indirizzo, lei viene da me a presentarmi una nuova clinica psichiatrica quando io sto lavorando perché non ci siano più le cliniche psichiatriche. AVS Media Demo. Abbiamo bisogno di nuovi architetti, cioè abbiamo bisogno di altre cose, di un cambiamento di cultura, un cambiamento della società, un cambiamento radicale della società. È questo che noi cerchiamo di ottenere. AVS Media Demo. Su Basaglia. D'altra parte, per concludere, vorrei dire che bisogna vedere, guardare a quello che Basaglia ha fatto, non mettersi a discutere su alcune sue dichiarazioni che potevano essere anche legate al momento politico. AVS Media Demo. Lui faceva era contrario a tutto quello che era stato fatto da secoli, ed era fondato sul fatto che lui considerava le persone che aveva trovato in manicomio uguali a se stesso, nel senso capaci AVS Media Demo. Di decidere e di ricostruirsi una vita dopo tanti anni che erano stati dimenticati. Giorgio, ti ringrazio, in effetti ci sarebbero tante cose da dire, anche molti stimoli che vengono ascoltando le tue parole, però AVS Media Demo. Preferiamo interrompere qua il collegamento con te per poter invece dare voce a Maria Rosaria Doronzo del Centro di Relazioni Umane di Bologna, e quindi ti rimandiamo magari a una prossima occasione in cui poter approfondire. Mi fate sempre piacere. AVS Media Demo. Grazie e buona giornata, arrivederci. Dunque questo era Giorgio Antonucci in collegamento da Firenze. AVS Media Demo. Annunciato, proveremo a metterci invece in collegamento con Bologna, Maria Rosaria Doronzo del Centro Relazioni Umane. Ecco, dunque siamo riusciti a entrare in collegamento con Maria Rosaria Doronzo del Centro Relazioni AVS Media Demo. Di Bologna. Centro di Relazioni Umane, perché si chiama così innanzitutto e che legami ha, se ce li ha, con l'esperienza basagliana? Sì, ciao a tutti. Sì, AVS Media Demo. Io l'ho copiato dal famoso refuso che ha fatto Edelweiss Scotti a Cividale del Friuli quando è stato mandato lì da Basaglia. AVS Media Demo. Ed era il primo reparto in ospedale generale, il primo reparto neurologico, il primo nella storia, perché appunto prima di quel momento le malattie AVS Media Demo. Psichiatriche venivano trattate negli ospedali psichiatrici, nei manicomi, e quindi Basaglia, con tutto il suo lavoro, siamo nel 69, con tutto il suo lavoro AVS Media Demo. Prima ancora di dare le dimissioni, chiede a Edelweiss Scotti, che è bolognese, noi siamo a Bologna, chiede a Edelweiss Scotti di fare questo esperimento. AVS Media Demo. Le persone devono essere trattate, i degenti devono essere trattate come tutti gli altri ricoverati di qualsiasi altro reparto. AVS Media Demo. Il dottor Antonucci e il dottor Tosi. E la prima azione che viene fatta in questo reparto è quello di cancellare la scritta reparto psichiatrico e mettere su uno striscione AVS Media Demo. Relazioni Umane. Edelweiss Scotti poi farà anche lo psichiatra, cioè no, lui non gli piaceva questo termine, faceva lo specialista privato. AVS Media Demo. Sulla sua targa, nel suo studio privato, aveva coniato questo termine, specialista in relazioni umane. Io ho conosciuto il dottor Tosi. AVS Media Demo. Nel 90, poi lui morì nel 98. Il suo ultimo progetto era quello di aprire un ambulatorio di centro di relazioni umane, un ambulatorio popolare in cui incontrare le persone AVS Media Demo. Difficoltà esistenziali, difficoltà della vita che malauguratamente vengono sedate, coperte con AVS Media Demo. Psichiatriche. E quindi in memoria del suo lavoro, del suo pensiero, della sua lotta alla psichiatria ho portato avanti io questo suo progetto AVS Media Demo. Relazioni Umane perché appunto la sofferenza interiore delle persone che si può manifestare con quel dolore AVS Media Demo. Con tante forme, dalla solitudine, dalla mancanza della voglia di vivere, dall'esigenza AVS Media Demo. Di vivere tutto in modo accelerato, dalla mancanza di senso nei propri scopi, a un fallimento amoroso, tutto quello che possiamo conoscere come sofferenza AVS Media Demo viene messa in relazione relazione alle possibilità sociali, alle relazioni che riusciamo a creare con gli altri, alle possibilità AVS Media Demo di relazionarci. Senti, in effetti, poi questo forse i nostri ascoltatori non lo sanno, ma te sei di formazione psicologa, sei laureata in psicologia e metti in campo anche queste tue conoscenze, questa AVS Media Demo nel portare avanti questi progetti, tra cui questo ultimo che ci raccontavi del Centro di Relazioni Umane. E allora mi viene da chiederti, siccome recentemente ho letto la recensione di un libro che deve essere ancora tradotto in italiano, AVS Media Demo, di Richard Bental, che si chiama Doctoring the Mind, in cui sostanzialmente viene esposta questa tesi, cioè quella che viene, diciamo, comunemente classificata come l'antipsichiatria, AVS Media Demo. Si vuole, perché poi la terminologia in questi casi è abbastanza problematica, alcuni settori anche della psicologia clinica che hanno un approccio contrapposto a quello psichiatrico, secondo l'autore, secondo Richard Bental, AVS Media Demo, stati, per quanto siano stati, diciamo, messi in minoranza, secondo lui rappresentano invece una valida alternativa proprio a quella che è la scienza psichiatrica, che invece nel suo arco storico ha sostanzialmente dimostrato AVS Media Demo. Cioè, a fronte di una produzione di sapere psichiatrico ingente, alla fine i risultati che la stessa psichiatria può rivendicare sono molto poveri, e si dovrebbe più onestamente decretare il fallimento della psichiatria e dare invece maggiore AVS spazio ad approcci come quello appunto del Centro di Relazioni Umane, basati anche su un'impostazione psicologica, di psicologia anche clinica, che però rifiutano, come dire, la classificazione, l'etichettamento psichiatrico, e dall'altro invece AVS Media Demo, quelli per esempio dei gruppi di autoaiuto, di fronte rispetto ai quali ci sono esperienze anche molto valide, quello che accennavi te e anche l'intervento precedente di Giorgio Antonucci sui cosiddetti uditori di voce, per esempio, è uno dei casi. AVS Media Demo aiuto hanno dimostrato di essere non solo validi, ma addirittura molto più efficaci di quello che è il tradizionale approccio psichiatrico. Per cui ti volevo chiedere questo, la domanda mi rende AVS Media Demo complessa e forse anche agisce su un piano che è quello terminologico un po', diciamo, superficiale, ma quando si cita appunto questo trinomio psichiatria, antipsichiatria e psicologia, AVS Media Demo, te che in qualche modo appunto ha avuto a che fare e si è confrontata con tutti e tre questi settori, che considerazioni ti senti di svolgere? Sì, come dicevi te, l'antipsichiatria AVS Media Demo è un calderone di prassi e di idee, dove c'è in comune il fatto di essere AVS Media Demo la reclusione e la creazione di nuovi luoghi, non luoghi, quindi il fatto di AVS Media Demo degli steccati tra gli umani. Credo che questa possa essere l'accezione più ampia che si ha di antipsichiatria. Poi ci sono AVS Media Demo molte correnti antipsichiatriche, specialmente quelle italiane di psichiatria democratica, che si pone appunto come avanguardia dell'antipsichiatria, che fa un massiccio uso di AVS Media Demo, perché comunque c'è la paura del pensiero dell'altro e il bisogno della sicurezza e del controllo dell'altro, per cui AVS Media Demo il rifiuto dei luoghi fisici, però dall'altra parte si fa massiccio uso di steccati mentali, di sedazione del cervello. AVS Media Demo. Tutti i pensieri vengono rallentati. Questo naturalmente non può favorire nessun approccio psicologico, perché nel momento in cui la persona AVS è Media drogata, Demo, o meglio ancora è drogata per intenderci, il pensiero non può essere fluido e qualsiasi analisi psicologica l'abbiamo persa AVS Media Demo con questo approccio farmacologico. Poi ci sono delle condizioni di lavoro psicologico che richiedono un appoggio allo psichiatra di turno, perché l'angoscia, voi parlavate prima del film di Basaglia, AVS Media Demo, è stato molto chiaro quel film, il fatto che l'angoscia del paziente investe l'operatore, come AVS Media Demo, relazione tra persone, per cui se lo psicologo, se la scuola psicologica non è forte su questo piano, AVS Media Demo, non è attrezzata, non ha strumenti ad affrontare l'angoscia, ma anzi tende a vederlo come qualcosa di patologico e quindi il bisogno di sedarla, AVS Media Demo, caso la psicologia non ne facciamo niente, non ci serve, ci abbiamo già rinunciato, quindi la psichiatria AVS Media Demo può essere utile anche in queste scuole cosiddette psicologiche e anche in quelle correnti dell'antipsichiatria dove il Moloch da dover AVS Media Demo, la segregazione fisica, dove invece c'è segregazione e isolamento chimico mentale, e quindi di fronte a questo AVS Media Demo catastrofe possiamo anche smettere di scandalizzarci delle persone legate al letto, delle persone che perdono la vita a causa AVS Media Demo dei farmaci, perché comunque sono previste dalla pratica, dall'ideologia stessa. Maria Rosaria, ti ringrazio, purtroppo abbiamo AVS Media Demo. Tempi, anzi ringraziamo anche la trasmissione che segue per averci concesso questi 5 minuti, sarà senz'altro interessante poter approfondire anche con te in futuro proprio il terreno concreto di intervento, perché poi qui ritorniamo AVS Media Demo. Di questa trasmissione che di solito si occupa di carcere, laddove si sceglie un approccio pragmatico ai problemi è anche impossibile fornire delle ricerche preconfezionate, e questo è proprio il caso di tutte quelle AVS Media Demo esperienze che si contrappongono alla psichiatria, laddove la psichiatria ambisce ad avere una ricetta unica, una classificazione, un etichettamento. Contrastare la psichiatria alla fine si risolve proprio invece nel AVS Media Demo, questa, diciamo, architettura che quindi prevede delle soluzioni standard, e però in quel caso bisogna poi scendere anche nel particolare e riuscire a capire su quali terreni potersi muovere AVS Media Demo dei casi che si presentano, perché ogni va caso bene, con una battuta posso dirti, posso già anticiparti che è la relazione con gli altri, la relazione con il mondo che AVS Media Demo, le possibilità e i nostri pensieri senz'altro, infatti l'attività del Centro di Relazioni Umane ci sta particolarmente a cuore anche per questo.